la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Alejandro Gutiérrez ha 41 anni, è un architetto cileno, giovane e visionario. La sua prima volta è quando accetta di progettare dal nulla un'intera città. Una città a impatto zero, un luogo dove le macchine funzionano grazie a un carburante estratto, dice lui, dagli scarti del riso. Rapporto alla sede centrale da parte di Sam Bell. Tutto procede regolarmente. La Lunar Industries resta l'azienda leader nella fornitura di energia pulita in tutto il mondo grazie al lavoro duro di persone come te. La descrizione fantascientifica fatta da Jones nel film Moon appare raccontando questa prima volta non così distante dalla realtà. Gutiérrez, l'architetto venuto dal Cile, carico di competenze e talento, dovrà progettare un posto, una città dove 80.000 persone vivranno producendo energia e nessun rifiuto. Se questa prima volta avrà una realizzazione pratica davvero, si tratterà di una svolta per tutti. Gutiérrez ci crede davvero, anche se il progetto procede non proprio rapidamente. I detrattori dicono che l'architetto cileno venda aria, ma i cinesi, che sono noti per il loro senso pratico, non la pensano così. Il fatto è che per i problemi ambientali che ha la Cina, dovuto al suo sviluppo economico, è che loro sono molto coscienti di i problemi che stanno causando a se stessi e anche al pianeta. E non c'è nessun posto, credo io, nella Terra dove sia più evidente il livelli di contaminazione e di mancanza di risorse naturali così come l'acqua e l'aria, che è nella Cina. Per cui a me non mi sembra neanche un po' strano che loro, presi da questo, che abbiano preso delle idee per sviluppare dei progetti e delle soluzioni verso l'ambiente che siano importanti. La città che nascerà dal progetto di questo architetto si chiamerà Dongtan. Dongtan è la prima volta di Gutiérrez, è la realizzazione di un sogno nato da un progetto per eccellenza, una città interamente sostenibile. Un posto dove nulla si getta e tutto si recupera, dove nessuna macchina inquina, dove nessuna fonte viene sperperata. Immaginatevi un cerchio, una ruota dove le cose tornano e mai vengono gettate via. Un processo circolare in cui la città diventa un organismo più metabolico, in cui tutte le risorse che entrano nella città sono riutilizzate in modo di generare impatti più bassi di quelli che genera una città convenzionale come quelle che conosciamo oggi. Allora, in particolare, Dongtan, quello che fa in modo come dimostrazione è che una popolazione di 80.000 abitanti nella prima fase può usare solamente delle energie rinnovabili per tutti i fabbisogni energetici che ha una città, sia dell'elettricità come del riscaldamento e anche dei trasporti. E questo direi che è la cosa più fondamentale, che una città moderna può essere, diciamo, alimentata da energia rinnovabile per tutti i suoi fabbisogni. La questione dei rifiuti è basicamente strategica. Allora, non è che il tema dei rifiuti si può risolvere prendendo la spazzatura che abbiamo oggi a casa e facendola sparire, no? Quello che c'è bisogno è una strategia di ridurre la quantità di rifiuti che si producono usando il concetto del designing out concependo dal punto di vista progettuale, per esempio, il packaging di un prodotto e con la minore quantità di packaging possibile, e che quei packaging siano per esempio biodegradabili. Okay? Allora, all'inizio della catena della produzione si comincia a capire già quali sono gli impatti nel sistema dei rifiuti di un oggetto, sia un telefonino, sia la pasta, sia il packaging dei fagioli, sia qualsiasi cosa, no? E dopo viene il processo di capire che all'interno di una casa devono essere separate, come succede tanto in Italia già, i rifiuti plastici, di quelli organici, di quelli di vetro e così, no? E allora così si può andare avanti e prendere quelle risorse e usarli come per riciclaggio dentro la città, perché sono già separate. È questa la straordinaria visione di Gutiérrez, una città che potrebbe essere operativa dal 2050, nella quale l'energia viene prodotta dalla buccia dei chicchi di riso, dove anche le macchine usano come carburante queste bucce. Un luogo incantato, tecnologico, quasi irreale. Per Gutiérrez non è il primo progetto in questo senso, ma è sicuramente la prima volta che ha a che fare con la creazione di una città dal nulla. È forse l'esperienza più affascinante che un architetto possa trovarsi tra le mani. Gotta spread love around, gotta spread it around. La prima volta. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. Downtown, il progetto di una città a impatto zero immaginata da un giovane architetto cileno, potrebbe invogliare gli abitanti di un altro pianeta a tornare sulla Terra, come racconta Colin Serò nell'ironico film Il pianeta verde. Non ti avevo visto, perché non ci dici a che punto erano quando sei stato sulla Terra? Certo, ma è stato tanto tempo fa, eravamo in due, il padre di Mila e io. Eravamo atterrati in Francia, a Parigi, avevano fatto una rivoluzione contro il loro re. Un bel colpo, avevano istituito una repubblica, però non è durata moltissimo. È l'essere un imperatore, Napoleone o un nome simile, un megalomane che faceva massacrare la gente in guerre idiote. Dopo di lui hanno ripreso il potere i re, allora sono tornati indietro all'improvviso di anni con dei capi, dei presidenti. A quel punto abbiamo chiesto il rientro e non so più niente. Era veramente dura là, vero? Ah sì, la legge del più forte, donne sottomesse, violenza, massacri. Ne avevano persino ancora il sistema della moneta. Prima di partire nascondemmo dell'oro per ogni eventualità. Che cos'è la moneta? La moneta? Oh, che cos'è? Sì, è come una legge di scambio. Per ogni moneta una cosa. Per esempio, se tu vuoi qualcosa, non lo puoi avere se non hai una moneta. Nemmeno da mangiare. Soprattutto. Mangiare è una necessità, si muore se non si mangia. Se ne infischiavano, se non avevi moneta niente. E credi che ce l'abbiano ancora la moneta? Oh no, penso di no ormai. Quando siamo venuti via era l'inizio dell'era industriale. E che cos'è? Sembra che ci siamo passati anche noi circa 3.000 anni fa. È la competizione, la contabilità, la produzione in massa di oggetti inutili, la guerra, il nucleare, la distruzione della natura, le malattie senza rimedio, la preistoria, insomma. Sì, l'anno scorso mio fratello ha fatto un sogno telepatico sulla Terra. Sì, ho visto un paese dove le donne portano un velo sul viso e non hanno diritto di guidare le macchine. No, non è possibile, vuol dire che hanno ancora delle automobili. Che cosa sono le automobili? Erano delle scatole di ferro, ci si sedeva dentro e camminavano da soli. La gente non camminava più e moriva di malattie di cuore. E c'erano milioni di morti negli incidenti. Comunque in questi 200 anni avranno avuto il tempo di sbarazzarsi delle automobili. Questa è la prima volta di una città non ancora nata e del suo creatore, un architetto cileno, giovane, Alejandro Gutiérrez. La città che sarà si chiamerà Downtown. L'idea, il sogno, la prima volta che tutto questo è stato immaginato da questo giovane architetto, fa i conti con la crisi che affronta anche la Cina. E così Downtown resta uno schizzo su un foglio. Qualcosa si è fatto, ma tutto è ancora in attesa. Il progetto non è ancora costruito, ok? Ed è un progetto che adesso è stand-by per ragioni, direi, della situazione della crisi economica mondiale, come tutti gli altri progetti in Cina. Ed è, dal punto di vista della sua pianificazione, del suo design, ha tanti elementi che sono meno costosi di una città canonica. Dal punto di vista dell'energia, che è uno degli item, degli elementi più, diciamo, diversi da una città canonica, perché questa città si provvede della sua propria energia attraverso questa pianta di biomassa, non aggiunge nessun costo al progetto immobiliare, perché è un business nel suo un business indipendente, ma cosa intendo per questo? Questa pianta genera una certa quantità di energia che è l'equivalente a quello che la città ha bisogno, però questa pianta vende l'energia al sistema, diciamo, di infrastruttura centrale di questa regione di Shanghai. E questo è un business indipendente, se mi spiego. Allora, certo. Si paga se stessa, capito? Perché poi i redditi che ha per vendere l'energia al sistema è il suo business. Allora, questo dal punto di vista dal modello economico si paga a se stesso in un periodo di tempo abbastanza normale, diciamo. Per cui questo dal punto di vista, diciamo, contabile urbano è l'energia di cui Dongtan ha bisogno. Dal punto di vista finanziario è indipendente, nel senso che se fossimo al caso estremo io potrei avere questa pianta di biomassa e non avere Dongtan e sarebbe lo stesso un affare, in un certo senso, mi spiego. Luna, i razzi sulla luna, oggi è un fatto normale, se ne vedono tanti piantati in fila che sembrano alberi di Natale. Puoi spostando il cannocchiale, puoi dare un nome alle stelle, puoi giocare con tutto e con niente, puoi giocarti anche la pelle, ma qualcosa ci manca e quel qualcosa ci stanca. Ci stanca avere tutte queste cose che ci mancano se non le abbiamo più. Eppure, il solo progetto di Gutierrez, il fatto di parlarne, ha reso il mondo, anche quello delle città in cui viviamo noi occidentali, migliore. Perché l'idea di poter migliorare, l'idea di poter progettare sogni politici, ha dato il via a un circolo virtuoso anche nelle province italiane. Ma è Londra, per ora, a correre in testa a tutti. Vorrei chiarire basicamente che quando uno pensa e pianifica molto bene e molto integratamente queste iniziative, non è necessariamente più costoso, non è necessariamente meno economico, anzi certe volte è molto più efficiente in tutti i sensi, dal punto di vista delle risorse naturali, tanto come dal punto di vista delle risorse economiche. Sì, ma ci sono degli esempi fantastici, per esempio adesso a Londra si sta facendo un piano molto ambizioso di attraverso, diciamo, il piano di Londra, che è un piano molto ambizioso dal punto di vista della sostenibilità, in cui loro vogliono ridurre le loro emissioni, la emissione della città da un 60% al 2020. Una delle strategie, diciamo, importanti per questo è fare un uso efficiente di una power plant esistente a Londra, che è antica, diciamo, che genera energia a gas e che quando si brucia il gas si genera tanto più calore di quello che si genera elettricità. Quel calore è disperso nell'acqua, nel Tamigi, invece di essere utilizzato per riscaldare le case o raffreddare le case attraverso un sistema molto semplice di assorzione del caldo, no? Quello che si sta facendo è di stabilire un network di riscaldamento a livello di distretti urbani intorno a questa power station, che prenderà il caldo da quella power station e lo farà, lo metterà in tubi e lo porterà attraverso la città per alimentare di riscaldamento dell'ordine di 120.000 unità abitative. Allora, sono queste mosse di ristrutturazione della città che sono molto necessarie in questo periodo di cambiamento climatico e di emissioni che devono essere ridotte, no? E allora ci sono tante risorse, come i rifiuti, come la geotermia, come l'energia solare, come l'energia eolica e tante altre, no? Che potrebbero aiutarci insieme a quella che oggi è per esempio il gas. Però andare verso il nucleare a me mi sembra una cosa molto complessa e molto difficile da sostenere nel tempo. E vi do uno spunto unico in questo ambito del nucleare, cioè per qualche motivo, non mi ricordo il nome adesso, Areva, che si chiama, la compagnia francese statale che opera le piante nucleari in Francia, è 95% proprietà dello Stato, perché c'è poca gente che valuta a basso rischio, diciamo, o come buon investimento, investire in compagnie che sviluppano e operano piante nucleari, perché il rischio è altissimo. E allora questo a me mi dà un'indicazione che non solo i mercati, ma la gente in generale valuta come troppo rischioso investire in questi ambiti. Questa è dunque la puntata che racconta una prima volta visionaria, il sogno di una città dove nulla inquina, il posto dove tutti vorremmo andare, un posto che forse non sorgerà. Eppure il solo averlo messo sulla carta, averlo sognato, progettato, descritto nei particolari, ha generato speranza e bisogno di migliorare. Questa è la prima volta che un sogno che non ha nulla di romantico, ma che è invece totalmente tecnico, trasforma le persone, modifica gli obiettivi e rende migliore anche il posto in cui siamo. La prima volta termina qui. Potete riascoltarci in podcast. L'indirizzo invece per scriverci è laprimavolta@radio24.it. Ci risentiamo domenica prossima dopo il giornale radio delle 13. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli. There's no better place to go. We got snow upon the mountains, we got rivers down below. We're coming down to the ground, we hear the birds sing.